E siamo ritornati in diretta, abbiamo da poco superato l'una di notte, abbiamo ascoltato anche questa splendida opera del 1900, anzi che va dal 1963-64 al 1968, opera Figures Duples Prismes for Large Orchestra. Pierre Boulez, abbiamo ascoltato anche la parte, diciamo, legata all'orchestra, dunque non soltanto all'aspetto delle composizioni pianistiche, ma dentro la composizione orchestrale contemporanea di Pierre Boulez. E qua, a questo punto, prima di presentare la prossima opera, che è del 1973, dunque siamo pienamente appena qualche anno dopo la nascita dell'ICRAM e di tutto il percorso della ricerca musicale di questo punto di riferimento fondamentale nella musica francese, ma anche europea, della sperimentazione. Ricordiamo ancora, nato nel 1970 l'IRCAM, dove lui, appunto, Boulez, fu direttore fino al 1992. Ecco, nel 1973, nel periodo in cui lui diventò anche direttore artistico della New York Philharmonic Orchestra, insomma, sempre più titolato, sempre più importante, riconosciuto il suo valore, la sua capacità, la sua grande innovazione nella musica contemporanea, nella musica moderna, anche dalle istituzioni, anche dall'ambito accademico, a cui lui non si era mai completamente, diciamo, staccato, non aveva mai avuto degli scontri piuttosto duri come altri invece compositori avevano avuto, ma manteneva sempre un'attenzione verso il mondo musicale, verso la ricerca, la sperimentazione, al di là dei titoli, al di là dei dati accademici, come gran parte dei musicisti con cui lui stesso aveva collaborato, e una buona fetta anche dei musicisti che si sono mossi nella musica contemporanea, al di là delle voci che sono girate intorno a tanti personaggi, in primo luogo a Stockhausen. Per Boulez, appunto, nel 73 elabora quest'altra composizione molto, molto interessante, legata al flauto e al piano, Sonatine für Flaute und Piano del 1973. Ma prima di presentarle, di continuare il nostro percorso, seppur frammentato, nella storia delle composizioni musicali di Pierre Boulez, mi devo togliere un sassolino dalla scarpa. Abbiamo superato l'una, dunque mi ci vuole. L'altra settimana, chi mi aveva ascoltato a 451 intersezione, avevo fatto un bel pippone, sempre nella parte dall'1 all'1:20 circa, che mi succede così: dopo un'ora di trasmissione partono un po' i momenti di rabbia, di considerazione rispetto a tutto il disastro che sto leggendo sui giornali, che sto ascoltando alla radio, che sto vedendo in televisione, che sto leggendo anche sul web, cioè il fatto che avevo visto questa puntata, questa trasmissione proprio una settimana fa, di una nota trasmissione televisiva che va in onda il giovedì, dove veniva fatto un'intera, diciamo, parte della trasmissione legata a denunciare con riprese, con pedinamenti stile poliziesco, alcuni dipendenti che, appunto, secondo alcune prove, altre non ce ne sono, si assentavano ingiustificatamente dal posto di lavoro nel comune di Roma, negli enti pubblici, andavano a timbrare i cartellini o se ne andavano, timbravano per altri lavoratori. E avevo, appunto, raccontato questo fatto che mi aveva abbastanza inquietato, di continuare a colpire ciclicamente i lavoratori del settore pubblico, dato che quello privato ormai è in totale schiavitù, dunque deregolamentazione totale. Tra poco, appunto, anzi, ci sono stati già esempi, ad esempio all'Expo, scusate il gioco di parole, dove molti lavoratori hanno lavorato a gratis. Tra poco arriveremo al punto in cui i lavoratori pagheranno per andare a lavorare, non si sa per quale motivo, per fare un curriculum, per darsi un senso. Ecco, dato che il privato ormai è devastato, l'attacco al pubblico è già da un po' di tempo che viene sviluppato, ma quella trasmissione sembrava abbastanza indicativa. Ecco, detto fatto, da quella trasmissione sono partite ovviamente servizi su servizi di TG, trasmissioni altre. E nel giro di una settimana è uscito questo bel decreto dalla Presidenza del Consiglio, approvato dal Presidente del Consiglio, che, appunto, il caro Renzi con la Madia ha già approntato questo nuovo pacchetto di belle, belle strette repressive espressive, con possibilità di sospensione sia dello stipendio che del lavoro entro 48 ore se colto in flagranza il lavoratore dipendente pubblico, e con anche un percorso molto più velocizzato che lo potrebbe portare entro anche un mese al licenziamento in tronco dello stesso lavoratore. Ecco, l'attacco proprio sviluppato è abbastanza sintomatico. Io mi ero già spaventato di questo servizio una settimana fa, ecco, dopo pochi giorni il governo è intervenuto. Dunque ormai i media seguono ovviamente un percorso che viene dettato probabilmente anche da qualcun altro per sviluppare solo determinati argomenti e colpire sempre i soliti noti. Poi in realtà ci sono situazioni ovviamente anche abbastanza indecenti, per l'amor di Dio, su alcune situazioni lavorative, ma noi che siamo contro il lavoro denunciamo il fatto che il lavoro è sfruttamento, è schiavitù. E dunque non è che per questi episodi dobbiamo incominciare a entrare dentro una logica di graticola, di controllo. Tra poco arriveremo con la polizia in tutti i luoghi di lavoro, con qualche le telecamere ormai sono state sdoganate, ma il controllo e la repressione sta diventando pesante. Adesso addirittura i programmi televisivi anticipano, anzi creano la strada, dunque sono quasi degli apripista per interventi governativi modello poliziesco, modello padronale, perché poi non dimentichiamoci che il padrone non è solo nel privato ma anche nel pubblico. Dunque questo giochino di andare a colpire qualche elemento per poi colpire e devastare tutti i lavoratori pubblici, dimenticandosi che i contratti sono fermi da secoli, che ci sono stipendi in molti casi ridicoli, che ci sono una marea comunque di dimensioni precarizzate anche nel pubblico, che c'è una dimensione ovviamente di sfruttamento, ma questa non viene indagata, come non vengono indagati i vertici, i dirigenti, settori collegati, la solita storia. Però insomma volevo togliermi questo sassolino, perché la settimana scorsa questa analisi, questa riflessione, la mia preoccupazione non era casuale e non è proprio è successo proprio quello che pensavo, ma non così velocemente, perché il governo è intervenuto, come qualcuno avrà sentito, nel giro di pochissimo. Adesso c'è questa stretta, entro 48 ore vieni cacciato. Belle cose, poi bisogna vedere come l'applicheranno, però la strada ormai è questa, quella che è stata intrapresa, dimenticandosi, perché pochissimi ne hanno parlato, che una marea di supplenti della scuola da settembre fino a dicembre non avevano ricevuto lo stipendio ogni mese, non l'avevano proprio ricevuto tutti quelli che erano supplenti, un sacco di gente che ha dovuto chiedere aiuto, addirittura andare a mangiare i pasti alla Caritas. Dunque situazioni allucinanti, ma vengono denunciate sempre queste cose per colpire e per portare avanti un determinato progetto. Purtroppo qualcuno che ha memoria si riesce a rendere conto che questi giochini non sono casuali, inchieste veramente pilotate, squallide, di matrice proprio sbirresca. Bene, dopo il sassolino rientriamo forse dentro il suono e le dimensioni compositive per Boulez, che erano tese alla liberazione, alla ricerca, all'astrazione, forse meglio rispetto alle cose terrene, materiali, che non sono certamente molto piacevoli. Andiamoci ad ascoltare dunque questa composizione del 1973. 73 è bello perché è un po' francesismo, Sonatine für Flute und Piano, in tedesco in questo caso, perché lui variava tra tedesco, inglese e francese, dunque si sbizzarriva con mio grande piacimento, perché mi incasino sempre di più. Andiamoci ad ascoltare ancora questa composizione del 73 di Pierre Boulez. Buon ascolto. Thank you. Thank you. E siamo rientrati in diretta dopo aver ascoltato anche questa sonatina, questo vero e proprio delirio compositivo, questo continuo rincorrersi tra pianoforte e flauto, splendida composizione del 1973. E ora arriviamo alla fine della puntata di stasera con la parte più vicina all'universo elettronico che ha attraversato Pier Boulez, che, come vi dicevo precedentemente, verrà curato maggiormente nella puntata che Max Macchia su 451 Frammenti Sonori dedicherà prossimamente a Pier Boulez. Comunque troverete anche le informazioni, le anticipazioni, non solo nel blog ma anche nella nostra pagina Facebook intitolata proprio 451 Frammenti Sonori, la trovate facilmente su Google, lì troverete anche le anticipazioni delle prossime puntate, della prossima puntata che dedicheremo come Network 451, in particolare come 451 Frammenti Sonori, dunque un mercoledì dalle 23 all'1, condotto da Max Macchia, sicuramente una delle prossime puntate, appunto affronteremo la parte più elettronica dedicata e legata a Pier Boulez. E rientrando appunto nell'ultimo ventennio, diciamo, di opere di Pier Boulez, che negli ultimi anni ovviamente si era fermato in termini di composizioni anche per l'età avanzata, diciamo che nell'ultimo ventennio c'è stato, diciamo, anche un ripensamento, un cambiamento dello stesso compositore Boulez, che si è, diciamo, progressivamente diciamo allontanate dalle correnti neodadaiste e da certe sperimentazioni per riscoprire una certa purezza formale e la raffinata timbrica, ad esempio, di Claude Debussy. Dunque c'è stato un cambiamento nel gusto personale dello stesso Boulez, e ricordiamo sempre che Boulez, nel corso comunque della sua decennale, più pluridecennale opera, ha revisionato i suoi lavori, dato che appunto le opere di Boulez sono sempre state opere aperte, e anche al di là poi dal maniacale perfezionismo, proprio perché Boulez era un perfezionista incredibile, e al di là però di questo aspetto era proprio una sua concezione della composizione musicale, e soprattutto col legame sempre maggiore che dagli anni 50 si è sviluppato nella musica contemporanea, nella musica sperimentale, tra composizione e tecnologie elettroniche, con evoluzioni rapidissime da parte ovviamente delle tecnologie, ha portato le opere stesse appunto a essere aggiornabili e aggiornate con una sorta di logicità rispetto al cambiamento dei tempi. Ad esempio una delle sue più importanti tre sonate per pianoforte, l'ultima, è stata in costante revisione fino dalla prima esecuzione del 57, e ad esempio soltanto due dei cinque movimenti che ha composto lo stesso Boulez sono stati pubblicati, così come ad esempio un altro brano famosissimo per flauto e nastro magnetico. È stato scritto questa composizione nel 70 e completamente poi rivisto alla luce ovviamente delle tecnologie dei live electronics negli anni 90. E proprio negli anni 90 andiamo a pescare l'ultima opera che andremo a ascoltare oggi nella puntata dedicata a Pier Boulez, omaggio a Pier Boulez, Antemesse 2 for Violin and Electronics del 1997. Questa è un'opera appunto che incastra perfettamente lo strumento acustico, il violino, con l'apparato elettronico, che ovviamente soprattutto negli anni 90 ha avuto una nuova grande esplosione. Comunque Boulez è sempre stato attento e appunto legatissimo alle tecnologie elettroniche, le ha sempre utilizzate anche per il suo approccio matematico e scientifico e per la sua precisione maniacale nella composizione, e dunque l'ha utilizzato in maniera piuttosto ampia in tante composizioni, in tante opere. Stasera abbiamo comunque concentrato, come avrete notato, di più rispetto alla parte legata alle composizioni pianistiche e alle composizioni orchestrali, lasciando per la prossima puntata dedicata a Boulez lo spazio più diciamo legato all'elemento elettronico. Ma non potevamo mancare anche nello spazio di 451 intersezioni di legare almeno una composizione all'elemento elettronico. Ce la andiamo a sentire, e ovviamente chiuderemo la puntata qua. Io vi lascerò dopo Pier Boulez alle musiche della notte di Radio Città Fujiko, e vi aspetto sempre per giovedì prossimo, sempre dalla mezzanotte circa fino all'una e mezza circa. E vi ricordo che 451 frammenti sonori condotti da Max Macchie ritornerà in onda mercoledì prossimo dalle 23 all'una circa, sempre sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Una buona notte e mi raccomando, occhi aperti e orecchie ritte, perché la situazione qua in Italia sta sempre più degenerando. Buona notte da 451 intersezioni. We'll be right back.